verità è che in fondo non siamo degni. Dico noi, il popolo, questo ammasso amorfo di teste piegate che si muovono come formiche impazzite. Non siamo degni di decidere, di avere opinioni, di compiere scelte collettive. Siamo la massa asinina e ilica di questo mondo, senza alcun sentimento se non quello bestiale. Siamo esseri inferiori e pertanto, necessariamente, costretti ad essere guidati da un'umanità superiore, spiritualmente superiore, migliore, elevata da conquiste sapienziali interdette ai più. Non siamo capaci di scegliere come vogliamo vivere. Abbiamo bisogno che qualcuno ci indichi qual è il modo migliore per vivere. Non siamo capaci di fare una scelta simile e pertanto quell'umanità superiore, avvezza all'uso alchemico della finanza e del denaro, è l'unica e sola capace di decidere per noi, di guidare col bastone l'ammasso bovino degli uomini. Questa umanità sceglie cosa dobbiamo mangiare, cosa dobbiamo respirare, cosa dobbiamo bere, perché sa benissimo cosa è giusto per noi. Noi non abbiamo capacità di giudizio, non siamo in grado di reggere il peso della società, non siamo capaci di governare i nostri istinti bestiali, di governare quell'uomo homini lupus che giustificava agli albori della contemporaneità la nascita del titano, lo Stato. Nessun potere legittimo prescinde dalla sua necessità. Il potere è una necessità. La società non si può autogovernare. L'umanità non è tutta uguale. Noi siamo gli ilici, i bassi, quelli che stanno giù, quelli che si bagnano sempre, perché piove sempre dall'alto in basso. E poi c'è un'umanità più subdola e in fondo più schiava, quella che sta in mezzo, i medi, quelli che nella maggior parte dei casi sono i difensori più strenui del sistema, quelli che sono disposti a morire per il proprio stile di vita, che non rinuncerebbero mai alle posizioni così faticosamente scalate nell'ordine sociale. Certo, esistono infinite sfumature e zone intermedie, colori sfocati che indicano situazioni diverse, gradi di consapevolezza, capacità di comprendere il proprio ruolo. E alcuni cani del potere sanno essere dannatamente efficaci nella propria raffigurazione parossistica dell'interpretazione del proprio ruolo sociale. Alcuni cani sono particolarmente spietati ed ambiziosi perché annusano pasti ben più sostanziosi, camere in cui i pranzi sono ben più sontuosi ed umili e servizievoli se ne stanno nell'anticamera del potere ad attendere un turno che probabilmente non arriverà mai. In questo, non troppo distanti da quelle povere maschere, dal latino persone, che se ne stanno ore e ore in fila ad attendere di essere chiamati alla mutua. Corridoi, anticamere, porte, scale e terrazze, la cosiddetta costruzione sociale, quell'immane palazzo i cui architetti banchettano alle spalle del mondo. La divisione sociale del mondo sta tutta qui, sta in una pretesa e in una concessione, la pretesa di una parte minoritaria, oligarchica, che ha il compito di tenere in mano il timone, e la concessione da parte della stragrande maggioranza a tenere legittimamente quel timone. È per questo motivo che fa sorridere ascoltare le pretese di maggiore democrazia, maggiore libertà, più diritti. Certo, negoziare ogni giorno il proprio ruolo, la propria parte, la propria fetta, molte volte porta vantaggi, sicurezze, conquiste, spazi. Ma fin tanto che si accettano le regole del gioco, non c'è possibilità di andare oltre ad una riduzione dell'orario di lavoro o all'aumento di stipendio, al mancato licenziamento o all'avanzamento di carriera, al riconoscimento di un indennizzo o alla riduzione delle tasse. Oltre alcune regole, il gioco non lo permette. È come tentare di vincere una partita di calcio afferrando il pallone con le mani e buttandolo in porta. Non solo il gol verrebbe annullato, ma verresti pure espulso. Il rettangolo è quello. La piramide ha una base, un tronco e un ben ben. Noi non meritiamo un mondo libero. Non siamo capaci di amministrarlo. Non siamo degni di farlo. Perché preda della materialità, con una vita spirituale inesistente, un mondo interiore arido, incapaci di elucubrare sul mondo e sui suoi significati. Tale compito spetta ad altri, agli aristoli, ai migliori. Il grande architetto ha certamente scelto un destino migliore per questo mondo, che non quello di affidarlo a degli esseri infimi, subumani, pusillanimi, barbari, incapaci. Questo mondo è il mondo degli aristoli, appunto, quelli che si credono i migliori. Insomma, di si sente un po' di rumore, Atmosfera del mondo di Giove, quindi questo sempre il 21 settembre, poi quasi inconsulto, io sono questione che si invece. Infatti se un po' cominciare, ma sono poi i comunisti insomma stanno adottando delle strategie di divisione, sì. Poi vediamo qua, nel 2006, nel 1 settembre, l'autorità militare irachena assume direttamente la responsabilità della sicurezza nella provincia di Bitar, già sotto controllo britannico britannico italiano. Quindi vabbè, questo è uno degli episodi della tragedia irachena. Niente, non è successo più niente il 21 settembre, queste più o meno diciamo le cose più significative, non vedo più niente di particolare. Quindi possiamo andare in pausa, la prima cosa della stagione, e poi cominceremo a parlare di quello che ci piace di più nei defunti. Di vedere le parole che muoiono, stanco di vedere che le cose non cambiano, stanco di dover restare allerta ancora, respirare l'aria come la mala gola. Stanco di vedere le parole che muoiono, stanco di vedere che le cose non cambiano, stanco di dover restare allerta ancora, respirare l'aria come la mala gola. Piedi fino a dove non senti dolore, solo per capire se sai ancora camminare. Il mondo è un corpo coperto di lividi, i miei pensieri sempre più vividi. Palpi sulla strada che si lasciano affittare, tavole anatomiche da saccheggiare. Corpo perfetto, corpo immortale, il corpo è la frontiera che si può violare. Vediamo un pochino i fini di quello che è successo in questi mesi, insomma ricordiamo gli episodi più significativi, così insomma, facciamo diciamo un riassunto veloce, sì, una cronostoria. Beh, diciamo che l'avventura del cat, hashtag zero discariche, a inizio quest'estate ci siamo lasciati verso l'ultima puntata, quindi circa il 6 luglio scorso, e quindi si inizia. Abbiamo parlato di Sirizza, insomma di una serie di attività da fare durante l'estate. La prima in cui ci siamo coinvolti è questo fantastico incontro organizzato dai DEM del PD a San Giovanni in Fiore con il sindaco di Capanno del Rifiuto Zero, in cui si parlava di questo fantomatico obiettivo di Rifiuti Zero, che siamo stati invitati, abbiamo partecipato non con poche polemiche, in modo abbastanza, come dire, forte, perché abbiamo fatto un intervento su cui poi si sono basati tutti gli interventi seguenti. Sì, è stato molto simpatico, perché abbiamo quasi monopolizzato l'incontro. Sì, assolutamente. Hanno fatto questo grande errore di farci parlare prima, pensando che potevano metterci un bastone tra le ruote, invece ci sono trovati a prendersi il bastone in quel pozzo. Abbiamo orientato un pozzo. Insomma, abbiamo fatto una serie di proposte, una serie di critiche abbastanza oggettive, che sono state apprezzate sia da chi veniva da fuori come il sindaco di Capanni, ma anche da esponenti regionali, che non è giudice Andrea, perché giudice Andrea non si può criticare, non si possono criticare tre persone al mondo, Einstein, giudice Andrea e Dio, gli altri si possono criticare, se il terzo non è proprio che non è Dio ma giudice Andrea. Siamo stati invitati, insomma, alla fine di questo incontro a partecipare alla quarta commissione ambiente, che si doveva tenere a settembre, ma ancora non era molto mentale, non siamo stati chiamati. La promessa è stata fatta da Arturo Bova, che è il sindaco antidiscarica di Portaghina, con cui il comitato è riuscito, diciamo, a evitare l'apertura della prima discarica d'Europa nella provincia di Catanzaro. Ma adesso quando ne apriranno un'altra a Vibo, arriverà Gerroni, prende la munizione di Roma. Vedremo come andrà a finire questa storia, altro che zero discarico, andiamo avanti. Insomma, ancora una volta quest'estate abbiamo dimostrato che noi riusciamo a parlare e collaborare con tutti, non abbiamo pregiudizi, ma contano i fatti e non le bandiere di appartenenza, quindi non tutto ci mancherebbe, però noi ancora siamo qui ad aspettare i fatti e ci continuiamo a tenere accuse di critici, denigratori e via dicendo. Giudice Andrea ci ha anche chiamato delinquenti, adesso arriveremo a sapere pure per quale motivo ci ha chiamato delinquenti. Grande Giudice. Insomma, nel corso dell'estate poi ci sono state un'altra serie di attività, per esempio siamo andati a fare visita all'Arpa, nella sede a Castro Libero. Ricordo bene, sì. Siamo andati all'Arpa, questo si ricorda bene, sì, però. Altre storie. Siamo andati a fare visita all'Arpagal per vedere come mai questi signori vengono a monitorare le emissioni di origine della discarica quasi lì alla grande. Ricordavamo quello che è successo nella sera. Le emissioni di origine proveniente dalla discarica di Genico, una volta hanno detto che non hanno gli strumenti per farlo, un'altra volta hanno detto che le emissioni non sono nocive e che non sono tali da poter determinare un fastidio continuo presso la popolazione, quindi questi signori a seconda di come si alzano la mattina. Fu simpatica comunque la dirigente dell'ARPA per dicendo che ci stavano dei professionisti che lavoravano con il naso, cioè letteralmente andavano a naso, cioè delle persone tutte varie, forse la prima volta magari avevano il raffreddore, la seconda volta avevano messo i nasi inusiti, solo 5.000 persone in presina la sembra tutti i giorni. Va bene così. Detto questo, diciamo che i nostri comuni non hanno fatto più che altro nulla per rigettare queste falsità, nel senso che esistono determinati dispositivi, normative e codici internazionali per misurare appunto questa puzza, questi odori malsani provenienti dalle discariche, per come in generale dagli impianti di trattamento rifiuti, però l'ARPA non dispone incredibilmente di queste sperimentazioni. E quindi il discorso è che molta gente rimane così allibita da queste dichiarazioni, da queste esternazioni, anche perché la c'è una telefonata, no, ma guarda, rimane allibita da queste esternazioni, in quanto ci troviamo in situazioni in cui almeno come cittadini non abbiamo più a che santa votarci, nel senso che l'ARPA con questo dispositivo avrebbe permesso tramite la regione, comunque anche la regione dorme, è stata estate, insomma, si dorme perché a questa discarica di questo impianto è sprovvisto ancora di copertura e di biofilter per quanto riguarda le vasche di trattamento dei rifiuti di essere messi in discarica. Come da cronoprogramma queste vasche dovrebbero essere completate, questa copertura dovrebbe essere completata nel giugno 2008, sì, siamo a settembre 2015 ancora di copertura non se ne vede niente, e non se ne sente, soprattutto perché la puzza l'altra sera arrivava fino al cimitero di Cosenza. Addirittura di mattina, prima mattina. Anche in primo giorno c'era una spazzatura alle 11 del mattino. Più forte della brezza dell'aria, insomma. Che scende. Questo caldo non li ha agevolati, diciamo, però nonostante tutto che non sono a norma rispetto alla protezione ambientale concessa dalla regione, questi signori continuano ad operare. Gli è stata inflitta una piccola multa di 3.000 euro perché avevano depositato dei sacchi di spazzatura in discarica prima dell'apertura. Noi abbiamo denunciato questo il giorno in cui siamo andati in discarica con la Divos, ma ci era stato detto che non era niente di rilevante, quando si sa bene che se una discarica opera nonostante prima che venga concessa la protezione ambientale è un buon pretesto per cadere addirittura forse nel penale, però qua si viaggia una multa di 3.000 euro, noi ci teniamo la puzza, ci teniamo il tanquale e la spazzatura dell'intera regione Calabria, regione Calabria dove continuano a dormire alla grande, perché quest'estate diciamo che era stata annunciata in pompa magna l'uscita del nuovo piano rifiuti. Sì, ma giugno non sarebbe dovuto uscire. Era giugno, poi a luglio, poi a settembre, settembre è finito, è ancora bene. È uscita una sorta di bozza dove è scritto anche zero discarica. Dopo quelle sono quel PDF di Pallariera, c'è scritto zero discarica, che Oliverio, che adesso racconteremo anche nell'incontro di Oliverio, si è battuto le cervelle tipo i nobanti di questa città alla Casa delle Culture, dicendo che ha inventato lui la strategia di zero discarica, che è meglio di zero rifiuti. Più avanti, più avanti. E più avanti, abbiamo visto benissimo. Diciamo che il giorno stesso che siamo andati all'Alpaca ci siamo recati da Oliverio presso la Casa delle Culture, dopo essere passati anche in prefettura a fare un bel incontro con il prefetto, diciamo che poi sono caretto con i vicari, i segretari, i superiori primari, siamo transitati lì in prefettura e poi ci siamo recati qui alla Casa delle Culture dove c'è Oliverio che faceva l'ispezione del centro storico per quanto riguarda la ristrutturazione, la cristina, tutte queste stanze per qui. Vabbè, no, nel senso queste sfilate, no? Nel senso della stanza per questo del centro storico che è fondamentale, importante. Siamo venuti qui, l'abbiamo bloccato all'uscita, dopo vari tentennamenti si è riuscito a fermare, visto i pericoli. Io ho fatto un giro tondo intorno alla sua macchina, sì, sì. Abbiamo fermato e alcuni dei nostri hanno cercato di parlare con lui. Io non avessi situazione scaricata. Sì, con il genere Pallaria, dopo un batti e ribatti il magico si può fare cambia verso Oliverio, è riuscito a spostare l'asse dell'estrusione sul populismo più becero, convenendo diciamo contro i comitati che sanno solo criticare, che avranno spazio in seguito nella stesura del piano dei rifiuti e vi dicendo si è battuto il capo. Ma veramente gridando che zero discarica l'ha inventata lui. Purtroppo quello che lui dice e quello che è stato scritto sul PDF profuso in regione è veramente fuori da, cioè non c'è nessuna, non sono parallele in quanto i dati riportati in quel PDF parlano chiaramente di una riduzione del 30% di quello che viene oggi sulle zero discariche, quindi zero discarica è un parallelo, zero discarica forse tra 200 anni, perché con quei dati le discariche servono e come si servono, e quello che stanno facendo oggi in giro per la Calabria è appunto quello che prevede quel PDF, ovvero l'apertura di scalaceli. Sì, però facciamo anche un collegamento con scalaceli e con zero last comunque il continuo uso della discarica di Cerico, di Pucina, di tutte le discariche legali e più o meno illegali e illegali aperte sul territorio calabrese. Quindi non c'è l'uso dell'ingeneritore, un uso dell'ingeneritore che ha un ruolo fondamentale nel nuovo sistema di gestione di rifiuti regionale, avrà un ruolo fondamentale. Insomma, abbiamo fatto una serie di incontri e poi, giusto per sfatare tutti questi tabù ancora una volta se era necessario. Abbiamo cercato di unire, diciamo, la teoria politica con la praticità dei comitati. Abbiamo steso un documento, abbiamo scritto un documento molto conciso, molto semplice, in cui si chiedono tre cose fondamentali, ovvero la chiusura della discarica illegale di Cerico, fondamentalmente la sospensione, si chiedeva la sospensione dei lavori fino al 30 settembre della lavorazione delle vasche e finché non venisse completato il biofiltro. 30 settembre coincideva nella data della scadenza dell'emendamento al sommarso, che dovrà essere rinnovato, o comunque se non verrà rinnovato la discarica di Cerico dovrà chiudere almeno temporaneamente. Abbiamo fatto firmare questo documento a tutti i sindaci. Abbiamo chiesto anche espressamente che lo sommarso non venisse proposto in altre forme nel piano rifiuto. E questo documento, come dicevo, è stato firmato da tutti i sindaci della Presina e dal consigliere. Questo è stato fatto il 14 agosto, noi non andiamo mai in vacanza. Sì, purtroppo mai stati in vacanza, essendo nulla facenti, non andiamo in vacanza. Ci fa piacere. Questo documento è stato firmato anche dall'onorevole giudice Andrea. Ed è stato sottoscritto anche teoricamente da altri consigli regionali, Luccione, Nove, tutta la tripla dei REM, che tengono bene a mettere cappello ogni volta ci sia la possibilità di farlo. A loro non interessa che si prendano tutti i meriti, che si scornino tra di loro chi l'ha fatta chiudere, il combattimento che venga fatta chiudere. Nonostante tutto, per far recepire bene a questi signori della politica e anche alla popolazione l'importanza della sottoscrizione della protezione ad un livello di questo documento, perché questo documento poi è stato portato dal giudice Andrea, dal sindaco di Rete Maggiore Alessandro a Mario Di Velio, che addirittura ha sottoscritto perché mi piace tantissimo. Poi ognuno fa quello che vuole, dice tutto bene di tutto, però poi i fatti rimangono sempre uguali. Abbiamo fatto un'assemblea pubblica a Cerico, aperta con tutti i sindaci della Presina, con la presenza del consiglio di giudice Andrea e anche la presenza di alcuni senatori e alcuni deputati del Parlamento italiano. E hanno, diciamo, mischiato un po' le carte, perché c'era chi portava avanti la solita teoria che la discarica venga usata solo dai comuni della Presina, dai comuni che fanno una raccolta differenziata del 65%, non si capisce bene se per questi signori la discarica è legale o illegale, e se è illegale, è legale solo per alcuni e non per altri. E quindi si vanno a confondere un po' le idee. Però diciamo un pochino un canito scorso con un intervento. Sì, ricordo, purtroppo di Cosenza che cosa dice. Purtroppo da una parte si può anche capire la loro posizione, la difficoltà, però qui andrà a mischiare e confondere le idee. No, infatti noi abbiamo chiesto proprio esplicitamente, è uscito ancora una volta, per l'ennesima volta, anche in plena. In quell'occasione la Comunità d'Assemblea è uscito chiaramente che la discarica deve essere chiusa, a prescindere, devono essere ritirate proprio le autorizzazioni che sono state concesse ultimamente nel 2014 per altri 12 anni, perché i profili di legittimità che ci sono, i problemi che creano un territorio talmente grandi che non possono essere più ignorati. Quindi noi abbiamo chiesto che al di là di quei rifiuti, al di là dello sommarso o del non sommarso, a noi non interessa, quella è una discarica illegale e va chiusa, punto. Questa è l'unica nostra proposta. Questa proposta, abbiamo detto anche chiaramente ai sindaci dell'altro giorno, non è negoziabile, non è assolutamente negoziabile, cioè non c'è discussione su questa cosa, perché o si dice che la discarica è illegale oppure si tiene aperta, e si tiene aperta e si usa per come le leggi regionali lo permettono. Ad oggi le leggi regionali permettono di utilizzare quella discarica, allora la utilizziamo e ci stiamo zitti, ci teniamo tutti i fattori negativi. Allora, se i sindaci sottoscrivono un documento in cui si chiede che questa discarica venga chiusa per questo e questo, devono pure assumersi la responsabilità di dire che questa discarica è illegale, perché profili, torno a ripetere, di illegittimità presenti in questa discarica sono innumerevoli e talmente grandi che non possono essere più. Altrimenti appare come se alcuni sindaci usino la questione di discarica come il coniglio dal cilindro del prestigiatore, ogni volta si avvicina una campagna elettorale, e noi non vogliamo pensare assolutamente a questo qua. Sempre quella sera, a proposito, a fine assemblea, nell'ultimo intervento che è stato fatto dal sindaco di Cerico, magicamente è spuntato un'ordinanza della regione che praticamente il sindaco ha tenuto come luce si diffonde di questa assemblea, come ad allietare gli animi delle persone, questo dispositivo della regione, secondo come era stato esposto, bloccava la discarica. Infatti poi il giorno dopo i titoli dei giornali asserviti e gli articoli sono usciti in maniera schifosa, allucinante, con ogni vero chiudono la discarica di Gerico, i sindaci chiudono la discarica di Gerico, però purtroppo questo non è, perché basta andare sul sito della regione Calabria, leggersi il dispositivo emesso dalla regione e vedere come semplicemente questo dispositivo che fa blocca il conferimento del tappone del Lugo fino alla realizzazione del capannone. Punto. La discarica continua a funzionare, continua a campare come ho sentito questi giorni, anzi il dolore è aumentato in modo esponenziale, continuano a essere buttati rifiuti di ogni genere a Cerico, Lucida, prossimamente a Scalaceri e in tutte le discariche della Calabria. Questo dispositivo non ha cambiato nulla, è semplicemente un contentino, un ciuccio cavola, un ciuccio cavola, che ci sono persone che sono pagate da questi politici, che scrivono sui giornali anche con un italiano abbastanza stentato e scrivono stronzate in nome di un chissà quale filosofia politica e quale appartenenza partitica, non si capisce bene. Cioè, devo anche dire, semplicemente vorrei aggiungere che comunque dalla serie fate pace col cervello, alcuni sindaci in quella serata famosa Cerico si sono schierati apertamente e fortemente da parte del comitato, dicendo che di essere disposti insieme al comitato e alla gente della presida, ovviamente, di andare a fare un blocco per il primo 8 ottobre. Vedremo, perché noi comunque ci saremo e vedremo un po' la coerenza di questi sindaci fin dove arriverà. Nel frattempo Laura Ferrara, Parlamento europeo, ha fatto un'interrogazione al Parlamento europeo, ha ricevuto risposta dicendo che ovviamente la discarica anche europea è illegale, che la Calabria non rispetta i parametri, che la Calabria è già beccata di multe, che la Calabria è 40.000 euro, 40.000 euro di multe al giorno, mi pare, non mi ricordo, un mese, al giorno. E comunque la multa è molto da milioni di euro. Sì, quindi devo dire. Stiamo parlando di cifre veramente. Un altro tabù da sfatare che è uscito quella sera è che in questa maniera la discarica con questo dispositivo tornerà a avere le funzioni per quale era nata, cioè basta andare sull'organico del comitato ambientale presidiato, che sono presenti tutte le documentazioni dal 1992 ad oggi di questo impianto di merda, e si vede precisamente come già nel 97 si parlava di discarica di tal quale. Questo impianto è nato come discarica di tal quale. Chi dice che è nato come impianto di compostaggio o non conosce i documenti o lo dice in modo mente sapendo di mentire. Quindi sbagliamo questo altro tabù. Chi ha problemi a credere a noi basta andare a prendersi i documenti sul blog. Chi non vuole prendersi i documenti sul blog basta andare al Comune di Cerico e prendersi i documenti. Magari riusciamo a dare anche il nome della cosa, magari vabbè, non adesso non lo trovo, ce l'ho qui sotto mano, aspetta, vi dico subito. L'ordinanza 2076 del 18 novembre 2002, Comune di Cerico, se volete andare a vedere come è nata questo impianto, che non è nato come impianto di compostaggio, ma è nato come discarica di tal per servire le eventuali emergenze. E poi anche impianto di compostaggio, se tu lavori l'organico per fare il compost, vorrei sapere che cosa ti serve costruire una buca di 300.000 metri cubi. Ma comunque adesso stanno facendo anche l'allargamento, voglio dire, non è che una buca così grande che serve. Infatti un centro di compostaggio avrebbe dovuto avere comunque una piccola scheda di servizio, di pochi metri cubi, diciamo, non sicuramente da 300.000 metri cubi, da quello che abbiamo realizzato. I progetti erano chiari fin dall'inizio, erano chiari anche a chiara lettera, scritto sui documenti, che questa era appunto un discarico che nasceva dall'esigenza di sopperire alle poi, come ricordiamo, nel 2014 in piena emergenza rifiuti e si inventano l'orso marzo appunto per poterlo utilizzare. Quindi i signori che gestiscono la discarica sapevano benissimo che prima o poi la politica gli avrebbe permesso di poterlo utilizzare, quindi di poter guadagnare la bellezza di milioni di euro ogni anno grazie al conferimento, perché poi sappiamo bene che in emergenza i rifiuti costano anche di più. È tutto un giro, è tutto un gioco che abbiamo individuato fin dall'inizio. Chi non se ne vuole accorgere fa finta di non accorgersi, non può totalmente stupido. Diciamo che ogni volta, ogni al volto scendere in piazza, e come se vengono due, per cui non ci vogliono mai scendere, vengono sputtanati allegramente queste persone che non conoscono la situazione, né tantomeno vogliono conoscerla per risolverla, perché per risolvere questa situazione bisogna conoscerla, e poi bisogna volerla risolvere veramente, e noi qua ci troviamo di fronte a persone che non vogliono risolvere la cosa. Ho detto questo è un riassunto proprio alla buona di tutto quello che è successo quest'estate. E stringere sui punti che abbiamo chiesto sul documento. Noi abbiamo fatto questo documento e abbiamo chiesto che cosa? Allora, la chiusura istantanea, subito, perché da fastidio oggi, essendo una qualsiasi tipo di attività che è privata, che porta danni a chi ci abita di fianco, perché comunque è a 500 metri dalla prima casa, se non a 300 se non sbaglio, allora andava chiusa subito e hanno firmato per questo. Dopo di questo cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto che nel rinnovo, nel prossimo consiglio, dove probabilmente se non nel nuovo questo marzo, non venga più votato. E loro hanno appoggiato anche questo. Cioè, già con questi due punti fondamentali abbiamo fatto un documento appoggiato da tutti i sindaci della Presiva che dicono, firmando, che vogliono chiudere questa discarica, giusto? Cioè questo è quello che abbiamo chiesto noi, questo è quello che dicono firmando, che vogliono fare loro. Ad ora. Allora i signori in piazza hanno palesemente detto che qualora la regione non espletasse tutte le richieste di questo documento si metteranno in prima fila a bloccare alla sbarra la discarica di Cerico con la fascia da sindaco e bla bla bla bla. Quindi noi li aspettiamo al varco e come tappa intermedia abbiamo proposto la fiaccolata, ci sarà giovedì 24, ma di questo ne parleremo dopo. Adesso facciamo una pausa musicale e ci risentiamo. buonasera. Ci senti? Salve. Mi sento. Allora, niente, volevamo sapere la situazione, qual è lì da voi, anche perché insomma Scalaceri rientra nel discorso generale dei rifiuti in Calabria, insomma si prospetta l'apertura di questa discarica che insomma andrà a affiancare le altre già presenti, insomma con tutti i profili di illegittimità che abbiamo denunciato, che i comitati hanno denunciato nel corso degli anni. Quindi che situazione c'è lì da voi e quali sono le iniziative che state intraprendendo? Guarda, proprio adesso stiamo svolgendo una assemblea con questa legge, in un paese, che vedete tra l'altro abbastanza partecipato, la gente è tutto bene, e siccome appunto la situazione sta facendo giorno dopo giorno, perché se si passa un commissario, perché si è Scalaceri, non c'è più il sindaco, non c'è il commissario, ha intenzione di fare la completa di servizi per appunto per mettere a posto la strada e quindi dare via di aiuto la completa manicarica, che molto probabilmente quelle che sono le voci è già in funzione di quella che è la condizione che per la voce, con proprio che ci sono stati dei versamenti in carica, quindi la questione è terrificante per quanto riguarda la gestione dell'ambiente, perché nessuno non riesce a capire se già è stato avviato un contenimento, se si aspetta appunto questa convenzione di servizi, che vengono appassionato, perché diciamo che partendo dalla Calabrese come per Celi, quando per Calabrese sta diciamo condonando tutte le legittimità, tutte le legalità, e poi dalla Calabrese si muove in ginocchio per tutti i lavori che sono in senso di una classe di licenza, di una burocrazia, anche di un'intervista Calabrese che fa solo pietà, che non riesce neanche a gestire tutto quello a medio periodo. Vediamo su quello che è il sistema dei rifiuti, che è già sta portando al collasso alle malattie in piccola regione Calabria. Allo stesso tempo che anche la dipendenza sta aumentando il numero di coloro che si ammalano di tumori, diciamo, in modo molto poco, ma purtroppo questo allarme che lanciamo giorno dopo giorno non sembra essere colto, mentre i dirigenti politici, né tanto meno dall'imprenditori e molte volte i cittadini. Per fortuna c'è la cellula. Ma ci sono dei problemi con la linea. Richiama. Ok, va bene, quindi diciamo che Mimmo stava sottolineando degli aspetti insomma che sono più a tutti i territori, insomma, perché anche a Cela per la conferenza dei servizi ha diciamo, sanato la legittimità in qualche modo, le distanze dei giocomitati, i fondi e tutto il resto. La conferenza dei servizi ha ricevuto l'ok della loro regione Scopelliti e della provincia di Cosenza Oliveri. Toscano diceva espressamente come il partito e il presidente Oliverio erano concordi nel piano della gestione dei rifiuti proposta inizialmente da due Scopelliti italiani, quelli che poi oggi criticano aspramente, quelli che l'anno scorso hanno poi dichiarato incostituzionale l'emendamento Orso Marzo, mentre quest'anno l'hanno rinnovato e probabilmente lo rinnoveranno anche per settembre, perché non hanno fatto nulla, perché non vogliono fare nulla. Anche perché noi ricordiamo a chi se ne fosse dimenticato che abbiamo fatto una delle ultime puntate in cui siamo stati presenti all'incontro questo Calabria Marcio di Corriveglio con i signori della Monnezza, con i privati, c'era Vren, c'era Guarascio, c'era Pellegrino, c'era l'Eco Rossi, c'erano tutte le imprese che fanno il business con la spazzatura in Calabria, e il presidente Oliverio aveva espressamente promesso che qualora i privati non avessero la pecunia per costruire gli impianti, la regione metterà i soldi pubblici per costruire gli impianti e poi cederà la gestione di tali impianti pubblici ai privati. Incredibile, perché secondo il presidente Oliverio il pubblico non è che può investire e gestire in sé, perché è improponibile, ovviamente. Sì, questa visione è tutto. È la gestione che ci troviamo dinanzi alla discarica privata di Gerico, che è illegale, la discarica di Gerico. Tra l'altro è seguito anche il risultato del referendum che ci fu insomma sull'acqua e anche l'utilizzo del pubblico, no? Delle aziende pubbliche, municipalizzate, eccetera. Sì, servizi, certo. Abbiamo fatto un referendum per anche per continuare a scavare nei conti pubblici. Ma in Italia diciamo che la legalità, la legge è un'opinione, sembra quasi un'opinione filosofica, non qualcosa di scritto e di sancito, perché insomma noi l'abbiamo visto. Il nostro presidio lì alla discarica di Cerico era un presidio contro le legittimità, contro l'illegalità di, del conferimento di tal quale una discarica che viene sanzionato a livello europeo e a livello nazionale, e in Calabria invece questo, questo principio giuridico non sussiste. Poi diciamo che o i cittadini fanno rispettare la legge oppure le istituzioni si confiscano la grande. Questa è la lezione che è venuta fuori. A proposito di questo, giusto per... Ma la telefonata non è, è saltata, è saltata, c'è un forte termine. A proposito di questo, a proposito di cittadini, di buona volontà e di partecipazione, giovedì 24 alle 21 ci sarà la fiaccolata in difesa della Brasile, hashtag ora mai più, che avrà inizio nella piazza della diretta di Celico e si concluderà nella piazza del Fontane a Spezia Mosila. Quattro fontane, scusate. Vabbè, funzionano tre comunque, infatti. Vabbè, comunque sono quattro, mi corretto. Quindi precisiamo, perché ci sono alcuni che vanno a dire in giro altre cose. La fiaccolata parte alle 21 dalla diretta comunale di Celico e si conclude quando si arriverà alla piazza delle Quattro Fontane, dove ci sarà un'assemblea pubblica, una sorta di assemblea popolare, e poi anche della musica e intrattenimento per cercare un po', insomma, come dicevo prima, lo scopo di questa fiaccolata non è una sfilata elettorale o proto-elettorale, ma semplicemente contarci per vedere quanto contiamo, nel senso, noi, come promesso anche dai sindaci, il 1 ottobre saremo alla sbarra a bloccare la discarica qualora la regione non intervenisse facendo rispettare un documento da, presentato dai sindaci della Presina, al comandante ambientale presidano e dall'onorevole giudice Andrea. Quindi vediamo se la popolazione veramente è pronta a difendere il suo territorio, vediamo quanti siamo, ci contiamo e blocchiamo questa dannata discarica. Perché sì, diciamo che insomma la fiaccolata è un messaggio, no? Cioè, un messaggio che insomma, la popolazione lancia in anticipo. È un messaggio. È l'ultimatum alla Dolomea. La Presina si sta dicendo no, questa discarica va chiusa. E la fiaccolata è questo messaggio, è questo ultimatum. Quindi il senso politico della fiaccolata del 24 sta tutto qui. Sta nella richiesta esplicita di Oliverio di mantenere gli impegni presi, di far rispettare la legge, di far rispettare i regolamenti e di salvare un territorio che è stato devastato da decenni di mala gestione. Quindi questo è il messaggio politico che lancia questa fiaccolata. Noi saremo presenti, poi chiuderemo appunto con un'assemblea popolare in cui tutti potranno dire la propria, in cui verranno fatte le proposte concrete, poi per organizzare effettivamente, eventualmente, il blocco del 1 ottobre, perché alla scadenza del 30 settembre, cioè la decadenza del decreto Orso Marzo, dell'emendamento Orso Marzo, noi saremo lì a dire basta di questa discarica illegale. Quindi questo è il senso del 24 settembre. Detto questo, facciamo una pausa musicale, vediamo se riusciamo a riprendere la telefonata e poi andiamo alle conclusioni. Sarebbe fantastico ritrovarti in capo al mondo e nel tuo modo di vedere le cose, sentirmi al sicuro, sentirmi a casa. Non ci serve un appartamento, non ci serve una famiglia, non ci nascondiamo più alla luce del sole, a quella del mare, fuori dalle trincee, combatteremo un'altra volta. Sarebbe fantastico lavorare stanca, lavorare uccide, lo sanno tutti che in film meccanica i soldi veri li fanno con le armi, e noi qui ad amare i nostri bambini. Ma che senso ha? Sarebbe fantastico non dover rincorrere la fine del mese ogni santo giorno che il Padre Eterno dispettoso concede alle nostre inutili vite. Non mi fossi mai sposato e non avessi figli neanche uno, avessi tanto tempo, ma tanto tempo per non fare più niente. Sarebbe fantastico ritrovarti in capo al mondo, e nel tuo modo di vedere le cose sia mezzogiorno e non dover incontrare ogni mattina un capo reparto impazzito e sempre incazzato. Dio forse sa perché. Prendersi cura di sé e scendere in piazza a bere un caffè, comprare un quotidiano per conoscere gli ultimi scandali di un paese che non cambia, non cambia, non cambia, non cambia, non cambia, non cambia mai. Fake and low cost flight and low profiling, sneak away from them all. Fuggire da Varese sbadigliando aperitivi, scappare da Caserta, gambe levate, andare per paese dall'altro capo del mondo, dove il cielo non finisce mai, dove l'oceano in tempesta è così bello che fa paura. Guardarti negli occhi e dirti che ti amo ancora, forse più di prima, amica mia. Scappiamo via da un paese che non cambia, perché non vuole cambiare, non cambia, perché non vuole. Certo, ma sì, come no? Potrebbe andare peggio, che ne so io? Potrebbe piovere! Salite perché prima o poi la puzza scenderà pure a Cosenza, così come succede a Pianopoli. dove la puzza della discarica di Pianopoli ormai si sente anche a chilometri e chilometri di distanza, e non sono in una situazione di correnti e brezze montane come invece a Cosenza. A Cosenza molte volte verso le 8, 7, 8 di sera si dice: ah, finalmente è arrivato, no, l'estate, lo sappiamo tutti, finalmente sta arrivando un po' di aria fresca dalla sigla. Bene, state attenti, cari amici e compagni di Cosenza, perché fra un po', quando quella maledetta discarica continuerà a ricevere rifiuti da tutta la Calabria, quell'aria fresca che viene da scendere dal pallone di profitto avrà un altro orezzo. Molta consistenza. Va bene, ci vediamo, ci sentiamo lunedì. Yeah. certainly wasn't the right. Definitely, I think he's cruising for bruising.